Mentre la folla esce dal tempio, ci spostiamo con il microfono sulla piazza, dinanzi al quattrocentesco palazzo del comune. Sotto i portici del municipio, la delegazione tarcentina si fa innanzi alle autorità cividalesi, che sono appena uscite dal Duomo, accompagnate dal seguito, che indossa magnifici costumi dell'alto medioevo. Un messaggero di Tarcento si appresta a leggere un messaggio di saluto. Signor Sindic, amis di Cividà, os invignus di Tarcint, a non dai nestris restant e di tutta la popolazione. A faus un augurio di buine epifanie. La epifanie furlane, si sa ben, e è massimamente vuestre, come il non latin de vuestre biele città, cale diventate il non di tutto il Friul, di tutte la nestre brave int, lavoradore e sclete. La messe dal spadon, l'usa ben d'occhi, e è una gloria vuestra, mondiale, unica sulla tiare, e bisognerà tignile sempre di con, par d'occhi sequi che vigneranno. Ma anche noi di Tarcin, magari, anche par vie desculinis che nus fasi in corona intor, tra il gestielat di Cuie e la glesiute di Sante Eufemie, o vin al di bon. I nostri spux di sozzere, i nostri spignarui, che impiascu la flamme dal focolar de chiase e tornin in monne volte a contà, come che al diseve il poete la loro antiche storie plene di luce e di ligrie. Uspietin dunque doce a Tarcin, ue dopo di mesdì e usgnos in grande fieste furlane. E voi, signor Sindic, accettait che strauez di uve calvenda in estri svignai, simbol di amicizie e di fedeltà furlane. Ed ecco ora una ragazza tarcentina in costume offrire alle autorità di Cividale grappoli d'uva. Pomeriggio dell'Epifania. Siamo sulla piazza di Tarcento, che ne regge di folla. Al centro, tre enormi focolari con il fuoco crepitante. La perla del Friuli oggi celebra la festa dei fuochi. Vediamo le delegazioni di Gemone e di Cividale, in costume, attendere il corteo, che in questo momento vedo partire dal palazzo del comune. Il corteo costituito dai signori Artico di Castello con il loro seguito nei suggestivi costumi del 200. Un messaggero si fa avanti, è il rappresentante di Gemone. Giorgia Sirans, amici Tarcin. Gemone non può mancare a una di vostre fieste dai fusse che fanno. Magari io che avessi un giro di culini così ben maturi come le vostre. Che stamattina una delegazione tarcentina alle venute che ha su di noi invidiamo e alle biel che si fanno così, in tutta fraternità, miece e miece, pare che os in due furlans di quest'anno. No, ho già ricordato la grande giornata con la nostra messa dal talar, vece di secoli, e come ho sentì avvio di vostri spignarugli. Ho sentì fare cambiare le arte delle vostre uve, con un mag di gras di bruguada, che cadino avveni novore bois, e ho spietì in tutti i carnevali, quanto ho faserin come sempre la nostra fiera mascherata di son via. Viva la Epifania, viva il Friuli! Ed ora è la volta di Cividale. Signor Cicelan, amici di Tarcin, non è stupiarvi se non state ricordati che Cividale, la Romane Forum Iuli, è a finir par dare il suo nome al Friuli e a tutte le brave in che non sviv kenti. Proprio che è tanti, a lei il motivo prim che non squarte chi a rindi omaggio ai sorestanti di Tarcin, dal Friul e ad us de convigne, in non de nostre storie, che non ienante colpe no, se gli stade tan grande. Una delegazione di Tarcin e gli vignude tordi misdi, a invidanus a e fieste dai fucs, dai pignarui, o sinca. E o volin anse ricambia lupiarte dal rauet di ue cul nestri pla pluibiel e santir, une gubane di regule, come che fasin dis nestris feminis, fes fiestis grandi, come che di ue, par esempio. Queste sì che ie tradizion furlane, queste sì alle Friul, e che vivin dunce i furlan. Vediamo le delegazioni offrire doni a Tarcento in cambio di quelli ricevuti nella mattinata. Gemona offre rape acide per la brovada e Cividale la profumata gubana. Mentre i danterini di Aviano si esibiscono in un caratteristico, eccitante e fragoroso motivo di antiche danze, vediamo il vecchio venerando, seguito da un corteo di pubblico, avviarsi verso il Fogolar Grand, simbolo della famiglia friulana. Ha inizio in questo istante il millenario rito augurale dei fuochi. Accende la torcia e l'accendono tutti quelli del seguito. Il vecchio venerando, seguito da centinaia di torce e da un imponente corteo, inizia ora la salita di Coia, che conserva i ruderi del castello dei signori Artico, per recarsi ad accendere sul Fischielà il Pignarul Grande. È uno spettacolo suggestivo e commovente. Eccoci a Coia. Giunge anche il vecchio venerando con la torcia accesa. Si avvicina al Pignarul e attorno con lui tutti gli altri. Ecco, hanno gettato le torce sulla catasta di legna. Il fuoco rapidamente invade la enorme catasta. Tutto arde. Intorno, lungo la stupenda conca tarcentina, come per incanto, si accendono decine e decine di pignarui. Ecco illuminarsi lassù le cime dei monti e dei colli circostanti, espandere una luce rossastra sui borghi di Coia, di Segnacco, di Ciseris, di Bulfons, di Aprato, di Collerumi, di Collalto, di Loneriacco, di Madonna, di Molinis, di Villafredda, di Oltretorres, San Mardentia, Sedilis, Noglareda, Stella, Volpins, Zomeais, Zuffia. Il vecchio venerando s'avvicina ad un gruppo e la folla attende in silenzio come se gli volesse parlare. Infatti, il venerando, ecco, rivolgersi alla folla. Del pum, al va sorelli e va, giol sul sac e va a margiare. Del pum, al va sorelli a mon, giol sul sac e va pal mon. Oh, no. siamo certi, cari amici lontani in ascolto, che queste semplici e suggestive tradizioni vi hanno riportato per un momento con il pensiero al nostro, al vostro caro Friuli. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 75esima trasmissione dedicata agli emigranti. Testo e adattamento di Ermete Pellissari. Hanno collaborato Ottavio Valerio ed il coro di San Lorenzo di Sebigliano, diretto dal maestro Plinizio.